ieri abbiamo tenuto un'assemblea con oltre 300 lavoratori, insomma su 160 circa dell'organico, quindi insomma praticamente quasi tutta l'azienda, contando ferie, malattie, emissioni, eccetera, eccetera, in cui abbiamo approvato un documento all'unanimità che si conclude appunto con lo stato di agitazione. In realtà la questione è abbastanza, diciamo, complessa, riguarda sì il futuro lavorativo dei dipendenti, ma riguarda in primis il futuro del diritto allo studio nella nostra regione, a cui chiaramente segue anche la condizione e il destino dei lavoratori. Noi come sindacato ci siamo sempre mossi in difesa del servizio pubblico, del welfare e il diritto allo studio, e universitario in questo caso è uno dei pilastri del welfare nel nostro paese, e quello che sta accadendo in Regione Emilia Romagna grida vendetta. Se posso riassumerlo schematicamente, diciamo che la regione, che è titolare della competenza, no? Dopo la riforma, la maledetta riforma costituzionale del titolo quinto della materia del diritto studio universitario, cioè il confederalismo regionale, ha deciso di avviare un processo di riorganizzazione regionalizzando tutte le proprie aziende, quindi sostanzialmente AR, che è l'azienda regionale per il lavoro, e ER, quella per il diritto allo studio, trasferendo insomma tutto in regione, non distinguendo fra un ente di programmazione, che è quello appunto della regione, e gli enti di gestione dei servizi. Questa cosa ha determinato il fatto che in giro di neanche un anno sono già cambiati sostanzialmente 4 direttori generali in un'azienda che per legge regionale attribuisce, a nostro avviso sbagliando, però le cose stanno in questi termini, un potere enorme al direttore generale di ERGO, perché assume i poteri politici che prima erano del consiglio di amministrazione e i poteri amministrativi, quindi è il rappresentante legale dell'azienda, sostanzialmente deve firmare tutti gli atti, le variazioni di bilancio, eccetera, e in questo modo è stata affossata l'azienda. Grandi difficoltà gestionali per quello che riguarda le borse universitarie, le borse degli studenti, e grandi difficoltà gestionali per quello che riguarda il patrimonio abitativo, ossia sostanzialmente gli studentati, che sono il core business di questa azienda. Scelte politiche portate avanti da questa giunta regionale che non hanno onestamente né capo né coda, cioè l'idea di risparmiare con processi di questo tipo è un'idea che fra l'altro è, oltre che essere sbagliata a nostro avviso politicamente, è anche farlocca, cioè nel senso che non risparmiano nulla. Il rischio oggi, che visto il disastro combinato in neanche un anno, in 8-9 mesi, si vada verso processi di dismissione di pezzi di questo core business, diciamo, in particolar modo della gestione dei servizi abitativi, e verso processi di affossamento del diritto allo studio, perché se in pro de ergo il diritto allo studio nella nostra regione sarà un diritto allo studio difficilmente gestibile anche dal punto di vista amministrativo. Insomma, basti pensare che l'Emilia Romagna era caposcuola in tutta Italia, in un giro di un anno noi siamo scesi in classifica di molto, cioè siamo un fanalino di coda, tant'è che la preoccupazione su questo, sia per l'erogazione delle borse di studio e per il resto, la preoccupazione di questo è una preoccupazione territoriale ma anche nazionale, insomma. Quindi questi sono i motivi proprio in estrema sintesi, ecco, di quella che è stata questa assemblea. Poi ieri pomeriggio abbiamo fatto un incontro anche con una parte del mondo studentesco. Che conseguenze ci potrebbero essere per i lavoratori di ERGO? Allora, per i lavoratori di ERGO noi abbiamo ottenuto, perché è già 6 mesi insomma che siamo in vertenza, 7, e abbiamo ottenuto dei tavoli di confronto che partiranno alla fine di febbraio. Però questi tavoli di confronto che ci sono stati comunicati ieri proprio, perché ogni volta che noi ci mobilitiamo poi si svegliano, diciamo, sono tavoli di confronto completamente inadeguati, per cui noi dobbiamo vedere, cioè il passaggio dei dipendenti dal 1 gennaio 2027 negli organici regionali, come prevede la regione, è un passaggio abbastanza a rischio per quello che riguarda i diritti acquisiti sia economici che normativi in ergo. Anche perché sottolineo il fatto che il nostro sindacato SGBL è maggioranza assoluta e in questi anni ha ottenuto in contrattazione aziendale dei livelli appunto contrattuali buoni, insomma, che ci hanno permesso anche di firmare questi contratti decentrati. E poi però se va avanti un processo di dismissione il rischio è tanto. Il rischio è quello che dentro ad esempio un progetto di creazione di società in house con Acer per quello che riguarda il patrimonio abitativo, ecco, in quel caso i dipendenti delle in house, delle aziende comunque a capitale pubblico, hanno un contratto non più della pubblica amministrazione ma privato, e lì ci sono delle differenze anche sostanziose, diciamo. Questi progetti però vengono nei corridoi, vengono annunciati nei corridoi e non vengono esplicitati, anche perché a nostro avviso questa giunta non sa neanche nemmeno dov'è che vuole andare a parare, perché realmente ha creato una implosione dell'azienda per il diritto allo studio universitario. Ecco, quindi questi sono i potenziali rischi. Però se ci fosse un'idea di questo tipo, appunto di dismissione di un pezzo del core business, questo avrebbe un effetto domino su tutti gli altri dipendenti, perché si tratterebbe di gestire delle mobilità, insomma, i lavoratori, adesso senza stare qua a tediarvi, dal punto di vista sindacale appunto ci sarebbe un effetto domino su tutti gli altri lavoratori. Quali sono le vostre richieste? Tanto noi abbiamo presentato 4 richieste che hanno carattere politico e sindacale. La prima è che ci sia un incontro con De Pascale e tutti i dipendenti Ergo, perché fino ad ora una cosa di questo tipo non c'è stata. Ci hanno mandato 4 direttori generali, il primo a interim a mezzo servizio, il secondo, la prima in realtà l'hanno, quella che gestiva il diritto allo studio prima, l'hanno defenestrata. Il secondo ce l'ha mandata a interim a mezzo servizio, l'ha altamente pagato per non fare assolutamente nulla e anzi bloccare l'azienda non firmando nulla per quello che riguarda le variazioni di bilancio, che vuole essere chiaro, senza quelli non puoi spendere nulla e quindi non fai assolutamente nulla. Ad esempio quella situazione ha determinato la chiusura di 300 posti alloggio per gli studenti, e che di cui a tutt'oggi non si vede ancora la possibilità di ripristinarli. E poi ci hanno mandato un altro dirigente, un altro direttore generale, che però si è dimesso appunto l'altro giorno. Oggi ce ne stanno mandando un altro, anche questo a interim, a tempo parziale, 1-2 giorni alla settimana. Ecco, in questa condizione è impossibile gestire un'azienda così complessa, e che gestisce tra 140 milioni e 145 milioni di bilancio, quindi è veramente impossibile. Quindi De Pascale deve incontrare i dipendenti e deve ascoltarli, prima cosa. Seconda cosa, nessun processo di dismissione. Terza cosa, il direttore generale deve essere un direttore generale non a interim e non a tempo determinato. Rallentare questo processo di accorpamento in regione fino a quando le cose non saranno ben chiarite. E poi l'apertura immediata anche della contrattazione aziendale, che hanno congelato, per cui non si riesce neanche a applicare il contratto collettivo nazionale attualmente in vigore. Insomma, queste sono le nostre richieste, più l'assunzione di 4 dirigenti per i 4 settori in cui è stata suddivisa l'azienda e l'assunzione di altri 20 lavoratori che sono necessari soprattutto nel settore abitativo, ma anche in tutti gli altri, compreso quello dell'erogazione dei servizi, delle borse e quant'altro.